dai l'idea arriva musica, non di certo piacevole. L'andrime sculettano all'overspace, bikini con tanga alla moda direi, attirano gli occhi di tutti i bagnanti, compresi anche i miei. Sono anche le landrime e l'oppia che non vogliono essere prese, ragioni sociali e economiche per noi inaccettabili. Lillo ingrifato come un cammello fuma e beve sotto l'ombrello, si vuole mollare su una lacrima sperando sia baschina.